parlami, senza dire niente, parlami, dai, cerca nel cuore, dimmelo, dimmelo, quello che ci serve ormai più. Fatti mangiare qui, fatti sentire, fammi sentire, sentirti, io sono qui, ne sono quasi certo, io sono qui, cosa ti costa, io sono qui, te ne sei accorta, io sono qui, qui. Parlami, che non spendi niente, segnami qui, senza rancore, cercami, scappami, fatti un po' sudare, toccami qui, proprio sul cuore, qui, fatti sentire, come dovessi morire, stringi di più, ne son quasi. Certo, io sono qui, cosa ti costa, stringiti qui, te ne sei accorta, io sono qui, qui, qui. Ci sono treni che non ripassano, ci sono bocche da ricordare, ci sono facce che si confondono e poi ci sei tu, e ora ci sei tu. Fatti sentire, sentire, sentirti, stringi di più, stringi di più, cosa ti costa, stringi io sono di qui, stringi io sono di qui, più, stringi io di sono qui, ne sono quasi certo, stringi io sono di più, qui, cosa ti costa, stringi io di sono più. Parlami dai, cerca nel cuore.